Senta, se dice Feo, lei come sta suo marito? Come sta suo marito? Ecco, appunto. Bene, non lo vedete? Non lo vedete lavorare tutte le sere? Lotta come un leone. Lotta come un leone. Ma quando è che molla il TG4? Sì. Quando è che molla? Non penso proprio che abbia intenzione. Quando si stuferà, siccome è un anno che non fa vacanze, forse un giorno o l'altro vorrà prendersi un po' di riposo. Vabbè, ma uno, insomma, arrivato a un certo punto, lascia strada ai giovani, o no, signora De Feo? Oppure tutta... i giovani sono bravissimi. Appunto. Però considero mio marito l'unico grande conduttore di telegiornale, perché va a braccio. Che mette su un telegiornale con poche persone. Cioè, meglio lui o Mentana? Scusa, il signor Mentana. No, il signor Mentana ha molti più giornalisti. Sì. È quello che sa che fa Mentana. Mentana è stato quando è stato un ha molto molto guardato al modo di condurre di mio marito, soltanto che parla in un modo, come dire, a mitraglietta. Ho capito. Conduce meglio suo marito o Mentana il telegiornale? Ma mio marito va tutto a braccio. Che significa? Che differenza c'è? Loro non hanno gobbo, non leggono niente. Suo marito è il numero uno, vuole dire. Suo marito è il numero uno da questo punto ma di vista. Non c'è dubbio. Perché la notizia si crea. C'è la differenza. È un uomo telegiornale, è un uomo che come dire, è incorporato nel telegiornale, il telegiornale è incorporato in lui. Ma come è incorporato? Che vuol dire incorporato? Cioè si immedesima nel telegiornale. Vuol dire che lui fa il telegiornale con la disinvoltura con una grande disinvoltura e semplicità. Come la gente lo sente. Ho capito. La gente lo segue perché è molto chiaro. È un po' faziosetto suo marito. No. Come mio marito non ne fa finta. Mio marito dice quello che pensa, non è che ho fa capito, finta. Però è un po' faziosetto, diciamo la verità. No, non direi proprio di no, non direi. Cioè equilibrato, dice lei, equilibrato. Molto equilibrato. Ma come molto equilibrato non si può dire, dai. Cosa pazzesca, però. È il numero uno, ma non si può dire. Chi è che sta parlando dall'altra parte? Parenzo, il signor Parenzo. No, ma io sono un amico del direttore. No, ma noi siamo amici del direttore qui alla Zanzara, l'abbiamo spiegato. Dire che è equilibrato è come dire... Insieme a Santoro, siete amici. Direttore insieme a Santoro? No, Santoro, siamo amici di suo marito. Siamo molto amici. Ah, ecco, no, perché è equilibrato mio marito rispetto a Santoro, poi è addirittura il vertice dell'equilibrio. Ecco. Addirittura? però scusi, come giornalista, tra suo marito e Santoro, chi è meglio? Ma che domanda, mio marito è un vero giornalista. E Santoro che è invece? Mio marito è cominciato dalla cronaca da ragazzo al Messaggero, che aveva 15 anni, faceva il cronista da Ostia, e ha fatto tutta la trafila, tutti i giornali. Tutti? Ha passato 20 anni ha finito la Gazzetta del Popolo a Torino. Vabbè, pure Santoro ha fatto la sua carriera da giornalista. Mio marito è stato inviato, ha fatto grandi scoop. Anche Santoro, ma per carità, se lo sogna Santoro.